Incontri di Gianfranco Fabi. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo per ogni cosa. Questa è la canzone di Ivano Fossati, la canzone che introduce il nostro incontro di oggi. Buongiorno e buona domenica a quanti ci ascoltano. Siamo con Giuseppe Mussari. Buongiorno, dottor Mussari. Buongiorno a voi. Presidente del Monte dei Paschi di Siena, una delle banche più antiche della realtà bancaria italiana, è stato prima presidente della fondazione del Monte dei Paschi di Siena ed ora guida questa banca e quindi ha in presa diretta tutte le problematiche del sistema bancario, di un sistema finanziario molto chiacchierato negli ultimi tempi, dobbiamo dire. Cercheremo di fare il punto con Giuseppe Mussari, ma comincerei con lui come con gli altri ospiti, guardando un po' alla sua esperienza e alla sua vita. Lei adesso vive a Siena. Da quanti anni vive a Siena? Vivo a Siena dal 1983. Dal 1983, venendo da? Catanzaro. Da Catanzaro, quindi una origine calabrese, poi si è trasferito a Siena per studiare probabilmente. Sì, per studiare. Per studiare all'università? Facoltà di giurisprudenza. Giurisprudenza, quindi lei è avvocato? Sì. E poi ha scoperto la passione per la banca. Come mai? Pensava, andando a Siena, di diventare un banchiere? Mai, ma non credo di esserlo. Sono andato a Siena per studiare, per laurearmi in giurisprudenza. Mia madre è nata a Siena, era un immigrante alla rovescia perché era andata a lavorare a Catanzaro. E ho fatto l'avvocato a Siena fino a quando non sono stato nominato alla fine di luglio del 2001 presidente della Fondazione Monte dei Paschi. Quindi è entrato direttamente alla presidenza? Sì. Beh, una bella carriera, diciamo, una carriera. Come ha trovato questa realtà della Fondazione del Monte dei Paschi? Ma la Fondazione, quando io ho iniziato, erano i primi anni delle fondazioni. Ma è stata una scoperta straordinaria, perché le fondazioni sono un'intuizione geniale del presidente Ciampi e di Giuliano Amato. E le utilizzarono per privatizzare il nostro sistema bancario e costruirono il prototipo perfetto dell'investitore istituzionale, ma ancora di più il prototipo perfetto di un soggetto che, pur essendo privato, ha finalità pubbliche. Noi siamo un paese in cui le finalità generali le immaginiamo sempre in qualche modo gestite da un ente pubblico. Non abbiamo una tradizione di corpi intermedi. Questo in relazione anche alle nostre esperienze storiche. Il fascismo eliminò tutti i corpi intermedi della nostra società. È molto centralizzato, infatti. Ovviamente. E invece riscoprire la possibilità che fra Stato e privato ci possa essere un soggetto privato, ma con finalità generali, è stata veramente una straordinaria intuizione. Le fondazioni oggi sono un architrave fondamentale del nostro sistema. Ecco, il Monte dei Paschi è una delle banche storiche italiane, ha più di 500 anni, fondata nel 1472. Ha sentito sulle spalle la responsabilità di questa storia? Si sente tutti i giorni, prima che Colombo scoprisse l'America. È sicuramente la banca più vecchia del mondo, la banca che da più tempo esercita questa attività, con il pregio di averla sempre esercitata nella maniera tradizionale, cioè raccogliendo risparmio, gestendo risparmio e impiegando questo risparmio a servizio delle imprese e delle famiglie. Quindi una banca molto legata al territorio, molto prima di, tra l'altro, dell'ingresso delle fondazioni, era una banca strettamente collegata anche con la realtà territoriale, qualcuno dice anche troppo. Il legame col territorio non è mai troppo. Oggi è una banca legata ai territori, quindi al paese, ma ogni territorio deve avere una sua chiave di interpretazione, una sua interlocuzione privilegiata. Monte dei Paschi nasce a Siena nel 1472 per volere del comune di Siena. È una banca che è durata dei secoli ed è durata per la capacità dei senesi e di chi ha lavorato al Monte dei Paschi non senese di farla crescere, di farla progredire. Nessuno l'ha regalata a quel territorio, nessuno l'ha regalata alla città di Siena, ed è giusto che la città di Siena ne sia gelosa custode e anche orgogliosa. Quindi c'è un'autonomia di gestione della banca, c'è un'autonomia virtuosa, cioè un collegamento col territorio che non è, diciamo, non tanto al servizio quanto alle dipendenze di chi il territorio lo controlla, parlo soprattutto a livello politico. No, questo è un tema dire, totalmente superato. Oggi la banca è una banca quotata in borsa con soci privati importanti, non solo italiani, stabili, Gruppo Caltagirone, Engine Caltagirone, AXA, Unicop Firenze, altri investitori privati leccesi, è un soggetto di mercato. Il suo rapporto col territorio è un rapporto di un soggetto in grado di risolvere problemi complessi, cioè di rendere la complessità lineare, ed è uno straordinario vantaggio competitivo per il territorio della provincia di Siena, della Toscana, di Firenze, ma anche un vantaggio competitivo di tutti quei territori in cui operiamo. Cioè la banca non è solo il soggetto che eroga credito, la banca è un insieme di intelligenze in grado di rendere lineare la complessità. Ecco, la complessità. La banca ha fatto dei passi in avanti, è cresciuta grazie ad acquisizioni, ha acquisito Beaver Banca, la banca di Vircelli di Biella, ha acquisito recentemente l'Anton Veneta, quindi è andata al di là del territorio, è diventata una banca nazionale. Come fa a restare in qualche modo una banca del territorio, una banca che ha una prospettiva invece ovviamente di carattere più aperto, più nazionale, che si confronta con le grandi banche italiane? Guardi, non abbiamo alternative, nel senso, la banca prima dell'acquisizione di Anton Bennett era già una banca nazionale con una prevalente presenza nel centro e nel sud dell'Italia, che ha mantenuto, che vuole incrementare e che vuole rendere ancora più operativa dal punto di vista dei contenuti. Anton Veneta e Beaver Banca sono stato il riequilibrio territoriale della banca per renderla completamente nazionale, ma la banca, una banca come il Monte dei Paschi, una banca retail, esiste nella misura in cui sta sui territori dove opera, diventa un interlocutore privilegiato di quei territori, si offre appunto come risolutore di problemi complessi. E non è solo credito. Quindi una banca, appunto, anche questo è stato un passaggio importante fatto negli ultimi anni, che si è allargata al settore anche delle assicurazioni. La banca Assurance è stata una esperienza che voi avete fatto tra le prime in Italia. Sì, Monte è stato il primo a gestire un rapporto diretto con il prodotto assicurativo da vendere attraverso lo sportello bancario, e aveva ed ha una sua società di assicurazione. Nel 2006 ci siamo posti il problema di come questo lavoro potesse essere svolto meglio, di come la complessità del modello assicurativo fosse aumentata, dei capitali e delle intelligenze che erano necessarie. Abbiamo deciso di sceglierci un partner e oggi siamo soci al 50% con AXA, che è una grande compagnia, anzi forse la più grande compagnia di assicurazioni europee, che ci ha dato la possibilità di avere migliori prodotti, migliore qualità di relazione con il nostro cliente e di entrare in uno schema, in un orizzonte molto più largo e molto più interessante. Incontri. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. Con questa canzone di Ivano Fossati, C'è un tempo per ogni cosa, riprendiamo il nostro colloquio con Giuseppe Mussari, presidente del Monte dei Paschi di Siena. Questa canzone l'ha scelta proprio Giuseppe Mussari, C'è un tempo per ogni cosa. Ha indovinato sempre i tempi per fare le cose in questi ultimi anni? La canzone è bellissima. Il tempo è una categoria affascinante, perché è l'unica categoria che non riusciamo a dominare. Abbiamo dominato lo spazio riducendolo. Il tempo no, riusciamo a mettere più cose nello stesso tempo, ma un secondo è un secondo, un minuto è un minuto, un'ora è un'ora. E il tempo è la vera lezione di questi tempi. Ma lei pensa al tempo più guardando al passato o guardando al futuro? No, guardando al futuro. Il passato insegna e ammonisce. Il futuro interroga e chiede risposte, ma il tempo va rispettato. Il tempo è un grande richiamo alla responsabilità, dobbiamo usarlo, il tempo, usare il tempo che ci viene dato, usare il tempo per fare portare avanti delle realtà che siano positive per la società che ci circonda, non solo per noi. Come vive il senso di responsabilità del banchiere? In una fase come questa è un peso significativo, perché oggi le scelte che la banca nel suo complesso fa significano per molte persone la possibilità di continuare la propria attività o di interromperla bruscamente. E ogni qualvolta si decide positivamente, non si decide solo sulla situazione che hai davanti, ma anche rispetto ad altre, per cui si deciderà in maniera diversa. E ogni volta che decidi male non solo hai fatto un danno alla banca, ma hai sottratto probabilmente risorse a chi le meritava. E quindi è veramente complesso. Dentro questo la tematica del tempo andrebbe gestita con più attenzione. Non si può chiedere risultati a tempi eccessivamente ridotti. Ecco, una delle accuse che viene fatta al sistema anche finanziario, al sistema economico, è quella di ragionare sul breve termine, sui risultati immediati, anche un po' perché i manager vogliono avere dei risultati immediati a cui sono collegati bonus, benefici, stipendi. E questo è un problema per il sistema finanziario. Questa è la vera contraddizione, una delle vere contraddizioni che ha determinato la crisi che stiamo vivendo o da cui spero stiamo uscendo. Non aver colto per tempo che lo spazio temporale necessario per sviluppare le aziende, per farle crescere, per migliorarle, non può essere legato a scadenze trimestrali. Che un'azienda ha bisogno di maturare. E la maturazione, con la maturazione di una persona, con la maturazione di un bambino, specie davanti a grandi cambiamenti, non gli si può chiedere di fare 3 anni in uno. Potrebbe anche riuscirci, ma subito dopo probabilmente perderebbe il gusto di imparare. In questo senso il fatto che una banca come il Monte dei Paschi, così come altre banche italiane, siano almeno in parte possedute da delle fondazioni che hanno in fondo come filosofia di essere delle prospettive di medio termine, se non di lungo termine, può essere un dato positivo. È sicuramente un dato positivo che dà una grande stabilità, una grande tranquillità ed è un dato che va assolutamente mantenuto e non, per alcun motivo messo a repentaglio. E poi, se mi consente, c'è anche un'altra soddisfazione. Le banche sono aziende, devono ovviamente realizzare utili e poi distribuirli ai loro azionisti. Sapere che una parte di questi utili poi verranno reimpiegati in attività di utilità sociale e non del tutto legittimamente per comprare una casa, una barca o per aumentare il conto in banca di un privato, è una soddisfazione in più che non fa male. Quindi anche il fatto che una fondazione distribuisca gli utili per attività diverse, attività culturali, assistenziali, promozionali, per essere sul territorio viene vissuto come, da lei come un dato positivo. Molto. E in questo senso la fondazione del Monte dei Paschi è anche apprezzata dal territorio, da Siena, da chi ci vive. Ma non solo dal territorio di Siena, io credo che la fondazione ormai abbia anch'essa una dimensione nazionale e sovranazionale. Della fondazione è bello ricordare gli interventi che fa fuori dall'Italia, in paesi dove con risorse relative si riescono ad affrancare problemi estremamente complessi, sia in Europa che fuori dall'Europa. Per la fondazione l'Italia è il mondo e sono cose che quando poi si vedono realizzate sono belle. Qual è tra le iniziative che lei ha fatto come presidente della fondazione o adesso come presidente della banca quella che ricorda con più simpatia? Ma come presidente della banca il lavoro che abbiamo fatto insieme al dottor Vigni, il nostro direttore generale, dal 2006 in poi per cambiare tante cose, per cercare di migliorare tante cose, per garantire al Monte un futuro autonomo, indipendente, di una banca veramente nazionale, in grado di misurarsi al meglio con i suoi competitori. In fondazione probabilmente l'inizio di questo lavoro all'estero, i pozzi d'acqua in Africa, le biciclette sempre in Africa, un ospedale in Afghanistan che purtroppo non sono mai potuto andare a vedere perché non era consigliabile. Complicato, certo. Però cose che vedi cambiano realmente la qualità della vita delle persone. Cioè, allora dici, tutto quello che facciamo ha un senso. Un'attenzione alla persona che può essere il cliente, può essere appunto chi è destinatario di queste opere che appunto certamente non risolveranno i problemi, però sono un passo nella direzione giusta. Se poi questi passi si moltiplicano, il sistema appunto anche di un'economia integrata, ecco, uno dei messaggi per esempio dell'ultima enciclica di Benedetto XVI è quello di integrare la logica di mercato con la logica della solidarietà. È possibile per un banchiere pensare a questo? Ma non c'è dubbio, guardi, non abbiamo alternative. Il mercato di per sé non è in grado di risolvere le contraddizioni che lo stesso mercato determina. Il mercato ha una funzione essenziale in termini di scelta del migliore, della migliore opportunità, della determinazione dei prezzi. Spesso non raggiunge questi risultati e spesso non riesce a ridistribuire in maniera equa quello che produce. E lì ci vuole l'uomo, l'attenzione per l'essere umano. Il fatto di continuare a pensare che ti misuri con i tuoi simili e non con altro diverso da te. E quindi senza solidarietà un mercato non ha senso, diventa una sorta di giungla in cui il più furbo, neanche il più bravo, alla fine sopravvive. E questo può servire anche a motivare le persone, non solo per raggiungere degli obiettivi numerici, magari finanziari, ma anche per avere un obiettivo di gruppo che vada al di là. Uno dei principi del sistema di valori del Monte dei Paschi è, tra l'etica della responsabilità, lo spirito di squadra e la cooperazione. Ecco, questo spirito di squadra e cooperazione vuol dire che comunque c'è una motivazione personale, però c'è uno spirito unitario in cui si cerca appunto di avere un obiettivo comune e magari di, non dico sacrificarsi, ma quasi. Guardi, da soli si può forse andare lontani, ma non si arriva mai da nessuna parte. Sono le persone insieme che raggiungono grandi risultati. La bellezza del mio lavoro in banca in questi anni è stato quello di poter lavorare insieme a un gruppo di persone che hanno creduto e credono in un progetto e che insieme lo portano avanti. Dentro questo progetto c'è anche il tema di sforzarsi ad essere diversi. Per esempio, per noi la relazione con la persona è biunivoca, cioè la relazione con il dipendente e la relazione con il cliente. Guardi che tanta attenzione si mette nella relazione con il cliente, tanta attenzione avrà messo nella relazione con il cliente, perché è il dipendente il terminale finale, cioè la persona che tutte le mattine tira su la saracinesca, certo, e si confronta con quello che è il tuo bene più prezioso, il tuo cliente. Se tu avrai avuto un buon rapporto con chi ti rappresenta in quel momento, lui avrà un ottimo rapporto col tuo bene quanti più prezioso. Quanti sono i dipendenti del Monte? Quasi 30.000. 30.000, è difficile gestire 30.000. Avete qualche particolare sulla gestione del personale? No, abbiamo una persona che gestisce molto bene questa cosa, che è il dottor Fabrizio Rossi, che è il nostro vice direttore generale vicario, che è molto bravo. Noi abbiamo sempre improntato la vita dell'azienda avendo ottime relazioni sindacali, molto elevate come livello di qualità, faticose anche, ma indispensabili. Un'azienda di servizi è data dalla qualità del rapporto fra il dipendente e il cliente. Certo. E quindi per noi è essenziale avere dipendenti sempre più convinti della qualità del lavoro che fanno, e su questo secondo me ancora dobbiamo fare molti sforzi. Non siamo arrivati al livello ottimale, dobbiamo lavorare. Ecco, ci stiamo avviando un po' alla conclusione. Io concluderei guardando un po' alla realtà italiana e anche internazionale in questa fase difficile in cui si cerca di trovare la strada per avviare una ripresa e per superare la crisi del 2008 e 2009. Le banche sono chiamate in prima fila ad avere una responsabilità, ad avere una fiducia in fondo nelle imprese, nei territori, nella capacità di crescita. Sanno rispondere a questa richiesta di fiducia? Io credo che debbano rispondere a questa richiesta di fiducia e debbano uscire da un certo tipo di isolamento. Oggi, secondo me, c'è una linea comune di interessi e di azione fra imprese, banche e consumatori, che devono essere molto più proattive rispetto a chi governa in Italia, ma ancora di più in Europa, a chi fa le regole in Italia e in Europa, perché dall'esercizio di queste regole, dalla fine di questo percorso, troveremo rapporti migliorati o peggiorati fra banche e imprese o fra banche e consumatori. Quindi ci muove un interesse comune: cogliere la ripresa, avere fiducia, dare credito a chi lo merita, aiutare chi ha possibilità di passare una fase difficile, ma stando sempre attenti a che le relazioni tra imprese, consumatori e banche siano mai inquinate da regole che le potrebbero renderle più complicate. Cioè, c'è un terreno veramente comune, enorme di lavoro. È un interesse sicuramente comune. In cui anche il banchiere deve comunque assumersi dei rischi. Il problema è fino a che punto. Chi lavora in banca si deve assumere dei rischi perché è il suo mestiere. Non può rinunciare a far questo. Rinunciare a far questo significherebbe iniziare a fare un altro mestiere, significherebbe gonfiare attivi dal punto di vista finanziario e non impiegare denaro per l'economia. Questo paese non può permetterselo. Deve farlo in un contesto regolamentare che gli consenta di dare il meglio. Un atleta, per dare il meglio, deve avere un giusto equipaggiamento, deve avere una pista sufficientemente scorrevole, sicura ma scorrevole. Questo è un interesse della banca, dell'impresa, del consumatore. Quindi complessivamente possiamo dire che resta ottimista sulle prospettive ed è più un ottimismo della volontà o un ottimismo della ragione? No, sempre della ragione, perché la volontà è indispensabile, ma solo se guidata da una ragione ferrea si perseguono gli obiettivi. Sono ottimista, siamo in una fase migliore di quella in cui eravamo un anno fa. Forse ci siamo scordati troppo in fretta cosa succedeva a gennaio e a febbraio dell'anno scorso, quando il mondo sembrava accartocciarsi su se stesso, ma dobbiamo perseguire l'obiettivo della ripresa con più velocità. Il tema non è quando ci sarà la ripresa o quanto sarà ampia la ripresa, il tema è quanta velocità potremmo mettere per rendere la ripresa più rapida, perché la caduta è stata verticale. Noi probabilmente non riusciremo ad avere una risalita verticale, ma più inclinata è questa salita. Sì. Quindi meno tempo ci mettiamo, meglio è per il nostro paese. E dobbiamo recuperare un po' di tempo perduto, anche quindi dando il via ancora alla canzone di Ivano Fossati. Io ringrazio Giuseppe Mussari, presidente del Monte dei Paschi di Siena, per essere stato con noi questa mattina. Ringrazio Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere ascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica.